GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È ripartita con le stive vuote la nave che 3 settimane fa era arrivata a Trieste per caricare 12 motori prodotti da Wärtsilä per la coreana Daewoo. Oggi l'udienza davanti al giudice del lavoro in merito al ricorso presentato dai sindacati per comportamento antisindacale. Se si sfruttasse tutto il potenziale delle fonti rinnovabili, il Friuli Venezia Giulia potrebbe produrre circa il doppio dell'energia. La stima è della società multiservizi A2A. Quasi 19 milioni di euro il costo delle bollette per energia e riscaldamento negli edifici scolastici della regione. Le risorse sono già a disposizione, ma per il 2023 si prevede un aumento dei costi di 10 milioni. Per risparmiare sulle bollette, il comune di Udine decide di tagliare le luminarie di Natale. Stesse intenzioni a Pordenone, a Vivaro da subito illuminazione spenta dopo mezzanotte e le aziende si attrezzano con fonti rinnovabili. Il legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei dei fiumi può essere raccolto senza autorizzazioni dai privati, a stabilirlo una legge regionale. Smartphone in classe sì o no? A Trieste scuole divise. Sempre più acceso il dibattito sull'uso dei telefonini a scuola, già vietati in alcuni istituti sia agli studenti che ai docenti. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia di cui soffrono 20.000 anziani nella nostra regione. Iniziative da Trieste a Udine, a Staranzano e gli addetti lanciano l'allarme per la mancanza di servizi in appoggio alle famiglie. Nel basket, quarto successo in Supercoppa degli Udinesi, che ieri sera hanno battuto Roma per 80-65. Venerdì la semifinale a Forlì. Buongiorno da Francesca Terranova e Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature a Trieste 14 gradi, mare poco mosso con temperatura di 22 gradi e mezzo. A Gorizia 10 gradi e mezzo, a Udine 9 e mezzo, a Pordenone 9 gradi. A Tolmezzo 8 gradi, a Forni di Sopra 4, a Tarvisio 5 decimi di grado sopra lo zero, a Sappada 5 decimi di grado sotto lo zero, a Piancavallo 2 gradi, sul Monte Zoncolan 2 gradi, su Lussari 5 decimi di grado sotto lo zero. A Legnano e Grado 16 gradi con temperatura del mare di 21 gradi e mezzo. Le previsioni: oggi il cielo sarà in genere sereno poco nuvoloso, sulla costa soffierà borino o bora moderata, possibile maggiore nuvolosità pomeridiana sui monti. Ha levato le ancore ieri alle 14 senza caricare nulla la nave che doveva consegnare alla coreana Daewoo i 12 motori prodotti per loro dallo stabilimento Wärtsilä di Trieste. Fim, Fiom e Wilman espresso soddisfazione e in una nota hanno ringraziato coloro che hanno sostenuto le loro ragioni, in particolare i lavoratori del porto, che dicono hanno contribuito in modo determinante a sostenere la lotta dei lavoratori di Wärtsilä. Oggi alle 12 davanti al giudice del lavoro l'udienza che vede la Wärtsilä accusata di comportamento antisindacale dai rappresentanti dei lavoratori. La nave UHL Fusion, arrivata il 30 agosto scorso nel Golfo di Trieste per caricare i 12 motori prodotti alla Wärtsilä da consegnare alla Daewoo in Corea del Sud e da allora rimasta all'ancora in rada senza attraccare, è ripartita a carico vuoto poco dopo le 14 di ieri. Per i lavoratori che si oppongono alla chiusura dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, deciso dalla multinazionale finlandese lo scorso luglio e ai quali nel frattempo è giunta una lettera di solidarietà proprio da Daewoo, si tratta di un'importante vittoria, spiega il delegato FIOM e membro della RSU di Wärtsilä Andrea Della Pietra. Un punto a favore arrivato alla vigilia dell'udienza davanti al giudice del lavoro in merito al ricorso presentato dai sindacati per comportamento antisindacale, prevista per oggi. Il 28 settembre, invece, dovrebbe essere il turno dell'esposto presentato contro Wärtsilä Italia dalla regione. L'azienda, intanto, ha depositato una memoria difensiva, nella quale spiega che l'attività produttiva del sito di Trieste è una voragine di perdite con 25 milioni di rosso all'anno dal 2020 in poi, e per questo la sua chiusura non è un atto irrazionale. Aggiunge inoltre che tutte le decisioni sono state prese in Finlandia e che quindi Wärtsilä Italia non può essere considerata responsabile e non ha tenuto una condotta antisindacale perché costretta alla riservatezza dalle norme sulle società quotate. Parole che hanno destato perplessità nell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. I sindacati, da parte loro, si dicono stupiti che lo stato di crisi dello stabilimento triestino sia emerso solo nella memoria e non ai tavoli di confronto, e danno appuntamento all'azienda in tribunale. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. L'energia elettrica prodotta da A2A in Friuli Venezia Giulia nel 2021 è derivata all'82% da fonti rinnovabili, è quanto emerge dal bilancio di sostenibilità territoriale, ma si potrebbe fare di più. Se si sfruttasse tutto il potenziale delle rinnovabili, Friuli Venezia Giulia potrebbe produrre circa il doppio dell'energia, riducendo le importazioni dall'estero. La stima è di A2A, la municipalizzata che gestisce due centrali idroelettriche e la centrale termoelettrica di Monfalcone. Un aspetto riguarda il recupero dei rifiuti organici. L'umido scartato da famiglie e imprese può produrre oltre 500 milioni di metri cubi di gas all'anno. C'è poi l'energia del vento, ma soprattutto quella del sole. Lorenzo Giussani, direttore della generazione del trading di A2A. In Italia siamo abituati a pensare che il fotovoltaico sia appannaggio delle sole regioni del sud, in realtà basti pensare a come è fatta l'Europa, producono col solare in Germania, in Inghilterra e quindi anche le nostre regioni del nord hanno un potenziale. Noi ci immaginiamo, abbiamo stimato un potenziale di circa 2,2 gigawatt di potenza installabile nella regione. Sono 122 dipendenti di A2A in Friuli Venezia Giulia con un ritorno di 16 milioni di euro per il territorio, numeri inclusi nel bilancio sociale dell'azienda. Anno difficile il 2022 anche per la scarsità di pioggia che ha ridotto la produzione idroelettrica, ma soprattutto per i prezzi alle stelle dell'energia che in realtà non hanno aiutato la società, come si potrebbe pensare. Sul 2022 è successo che noi avevamo già venduto la nostra produzione sui volumi attesi delle medie decennali e ai prezzi di 2021. Ci siamo sorpresi ad avere circa il 35% in meno di produzione idroelettrica e quindi parte dell'energia che avevamo già venduto a prezzi bassi abbiamo dovuto addirittura ricomprarla a prezzi alti. È oggettivamente difficile identificare selettivamente delle nicchie che stanno facendo i cosiddetti extra profitti. Novità in attesa degli ultimi mesi è la riaccensione della centrale a carbone di Monfalcone, che in futuro sarà a gas e idrogeno. Un riavvio dovuto alla necessità di evitare blackout resi possibili dalla riduzione del gas russo. Monfalcone è rientrato in servizio, ovviamente con il pieno e assoluto rispetto di quelli che sono i limiti emissivi, e sta dando il suo contributo temporaneamente. La nostra speranza è che questo duri il meno possibile. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E sarà un Natale con meno luminarie quello di Udine. Ieri la giunta comunale ha votato una manovra per trovare altri 4 milioni di euro per pagare le bollette. Tra i tagli stabiliti anche 100.000 euro in meno per le iniziative di Natale, pari a più della metà dei fondi inizialmente previsti. E anche la giunta del comune di Pordenone ha già comunicato alle associazioni i dettagli di un Natale sottotono. Le luminarie e le casette dello shopping ci saranno solo in centro, a ridosso della contrada. Ancora in tema di risparmio energetico, dalle luci spente in anticipo la sera nei negozi del centro di Pordenone, alla decisione del comune di Vivaro di lasciare al buio anche le strade a partire da mezzanotte, fino alle aziende che hanno deciso di produrre energia non solo per l'autosufficienza. Sentiamo. Con i suoi 170.000 metri quadrati di superficie, la storica Savio Macchine Tesseri è tra gli stabilimenti più grandi del Pordenonese, tra le prime sul territorio ad aver investito nel fotovoltaico quando ancora le bollette non erano le stelle, puntando all'autosufficienza energetica pur non essendo energivora. Dopo aver bloccato negli ultimi 2 anni il prezzo dell'energia, lo scorso inverno ha scommesso su un progetto da 870.000 euro per installare sui propri terreni 4.000 metri quadrati di pannelli che da fine anno produrranno 1 MW. Il facility manager dell'azienda, Andrea Dell'Anna. Con l'impianto riusciamo a sopperire a circa il 70% del nostro fabbisogno di tutto l'anno. Siamo quasi autosufficienti. Siamo stati lungimiranti perché il rientro dell'investimento in termini economici è di circa 1 anno e mezzo. Da tempo l'azienda ha in corso un programma di efficientamenti energetici anche sul fronte gas, che passa anche per la sensibilizzazione dei propri dipendenti. Il direttore risorse umane Mirko Zin. Staremo un po' più freschi. Ci vestiremo di più con l'obiettivo appunto di contenere i costi, perché se dovessimo avere lo stesso atteggiamento dell'anno scorso saremo probabilmente con dei costi che si aggirano su 1 milione in più. In centro storico a Pordenone intanto luci spente in anticipo la sera in diversi negozi di abbigliamento e preso d'assalto lo sportello aperto da Confcommercio per aiutare le imprese nella lettura delle bollette. Federica Morello, Federmoda. hanno deciso di abbassare le luci qualche ora prima rispetto ai soliti orari. Siamo intorno alle 10:30 la sera. C'è anche, diciamo, un po' di dispiacere, ma è una delle soluzioni più immediate. Al buio dalla mezzanotte anche le strade di Vivaro, il comune dei Magredi nella pedemontana pordenonese, da anni esempio virtuoso di risparmio energetico, è stato tra i primi a spegnere l'illuminazione pubblica dalla mezzanotte per tagliare i costi in bolletta, altrimenti insostenibili, spiega l'amministrazione. Popolazione e imprese approvano la scelta che adesso sta facendo scuola. Greta Morassutti, commerciante. Va bene spegnerla. Alla fine, per quello che si può risparmiare, è giusto risparmiare. Noi chiudiamo alle 8, quindi alle 8 chiudiamo le luci, fino alle 6:30 quando riapriamo la mattina. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Le bollette sempre più pesanti si fanno sentire anche nelle 136 scuole superiori gestite dagli enti di decentramento regionale. Quest'anno per elettricità e riscaldamento la spesa totale è di 18.600.000 euro, ma si arriverà a spendere 29 milioni di euro nel 2023, stando alle attuali proiezioni della Borsa dell'Energia di Amsterdam. È la fotografia emersa dall'audizione in sesta commissione del Consiglio regionale. Chiuderanno comunque in pari i bilanci degli EDR, salvo quello di Udine, che ha chiesto alla Regione uno stanziamento ulteriore di 400.000 euro. Nelle prime riunioni tra EDR e dirigenti scolastici sono emersi alcuni suggerimenti, il primo dei quali è la riduzione della temperatura nelle aule a 19 gradi, con una tolleranza di un paio di gradi in più o in meno. Idea condivisa dalle associazioni dei presidi, che aggiungono la proposta di svolgere online una serie di attività come i consigli di classe e il consiglio docenti, l'idea poi di limitare all'indispensabile l'illuminazione artificiale e di regolare anche l'apertura delle finestre, sempre al fine di limitare gli sprechi e ridurre i consumi energetici. Netto no invece alla settimana corta obbligatoria per tutti. Mancano pochi giorni al voto del 25 settembre. I temi di Fratelli d'Italia con la voce di Walter Rizzetto e del centro-sinistra con la voce di Furio Honsel in questo servizio. Il tessuto imprenditoriale e la capacità di rilanciare il paese in un momento difficile rientrano tra le priorità di Fratelli d'Italia, temi che rilancia Walter Rizzetto, coordinatore regionale del partito e candidato nel collegio uninominale della Camera di Udine, assieme alle sfide sociali per donne, giovani e pensionati. L'importanza di queste elezioni è per dare nei prossimi 5 anni un governo stabile al nostro paese, un paese che evidentemente sta soffrendo, un paese che ha nelle proprie aziende effettivamente i veri creatori di posti di lavoro e quindi va data loro una mano con l'abbattimento del cuneo fiscale, con la sburocratizzazione, con la digitalizzazione delle aziende, un paese che deve inevitabilmente fare un grande passo avanti rispetto al lavoro giovanile, al lavoro femminile e alle pensioni, tra l'altro, un tema assolutamente molto importante. Un paese che deve, evidentemente, rilanciarsi. Punta sulla ricetta per far guarire il paese dalle diseguaglianze, invece Furio Honsel, candidato del centro-sinistra al collegio uninominale del Senato, che propone un'alternativa secca alle linee guida del centrodestra, sottolineando l'importanza del voto. Queste elezioni sono decisive perché stiamo vivendo un momento estremamente difficile. C'è in atto una crisi ambientale molto grave, c'è la crisi energetica, c'è stata la crisi idrica, c'è una crisi sociale con le disparità tra i nostri cittadini che stanno aumentando. A questi problemi, che sono problemi difficili, non si può dare delle risposte semplicistiche come quelle che dà la destra con degli slogan. Bisogna invece partire da quelli che sono i valori fondanti del centro-sinistra, che sono la solidarietà e l'inclusione, con particolare attenzione soprattutto alle fasce più fragili, che sono quelle degli anziani, dei pensionati e dei giovani. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Liberare gli alvei dei fiumi e recuperare legna da ardere lo possono fare anche i privati grazie ad una legge regionale. Il legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei e nelle golene dei fiumi può essere raccolto gratuitamente e senza autorizzazioni. A stabilirlo è una legge regionale, riferendosi ai terreni del demanio idrico. Legna di qualità non eccelsa per le stufe, ma di certo un'opportunità in più ora che i prezzi dei bancali di legna da ardere sono quasi raddoppiati. Come ci dice un rivenditore, i magazzini sono vuoti e in inverno c'è il rischio che venga a mancare materiale secco. Comprare legna essiccata in forno costerà ancora di più. Marino Visentini, del direttivo Legambiente Udine. È materiale che è un po' alla rintusa, però appunto è già quasi secco e quindi diciamo così da poter utilizzare nel giro di poche settimane. era un uso, diciamo così, per il sostenimento, anche per il riscaldamento delle abitazioni che appunto non avevano il gas, non avevano altri materiali per riscaldarsi, e quindi utilizzavano il legname o dei corsi d'acqua o delle boschette laterali. Marco Gardel, responsabile della stazione forestale di Tercento. L'utilizzo di questo legname, quale legna da brucio, non è certo, diciamo, il massimo dell'efficienza, però bisogna considerare che costituisce un grande aiuto nel mantenere gli alvei puliti e quindi prevenire i rischi di trasporto solido in caso di piena. La stessa legge regionale del 2015 prevede la possibilità del taglio e asporto di alberi e arbusti dalle sponde demaniali fino a 50 quintali l'anno, gratuitamente. Basta una comunicazione scritta alla stazione forestale competente. Vengono eseguiti gli sopralluoghi e dati tutti i consigli tecnici al fine di tagliare in sicurezza e nel rispetto delle norme forestali. E a proposito, come ricorda Carlo Piemonte, presidente della cooperativa Legno Servizi, legalità e sicurezza sono gli aspetti più importanti. Non ci si deve improvvisare boscaioli perché l'incidente può essere dietro l'angolo. Pagnacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cellulare in classe oppure no? Un dibattito che divide, quello sull'uso dei telefonini a scuola, già vietati in alcuni istituti sia agli studenti che ai docenti. Smartphone in classe, strumento utile alla didattica da tenere sul banco e usare quando serve, oppure mezzo di distrazione continua, meglio se chiuso in armadietto fino a fine lezione? Sul tema la maggior parte dei ragazzi non ha dubbi, meglio non separarsi mai. Secondo me il cellulare è un ottimo strumento sia per informarsi, anche per la scuola può essere sempre utile avere a portata di mano uno strumento per avere informazioni velocemente. Possiamo utilizzarlo perché è un mezzo, insomma, non bisognerebbe vietare l'utilizzo. Bisognerebbe semplicemente magari mettere delle regole, ma utilizzarlo. Io non mi distraggo perché comunque hai qualcuno che ti spiega le cose e puoi usarlo anche a tuo vantaggio, ricercare delle cose, prendere appunti, e quindi è molto utile. A livello nazionale, ma anche qui in regione, molte le scuole che stanno scegliendo di essere smartphone free, senza cellulare, un modello sul quale ci si interroga. All'Istituto Da Vinci Carli Sandrinelli di Trieste, la dirigente Ariella Bertossi ricorda gli anni della pandemia. Negli anni scorsi i cellulari sono stati la salvezza e quindi un mezzo molto importante per collegare i ragazzi con il mondo della scuola e dell'istruzione, quindi più che senza cellulari forse dovrebbe avere qualche regola in più. E fa degli esempi a fini didattici. Ci sono tantissime applicazioni che vengono usate per vivacizzare la lezione, per cercare delle fonti, per proporre dei quesiti. Al liceo Oberdan una docente, Virginia Giusti, ha promosso una sperimentazione. I ragazzi della seconda dell'anno scorso erano molto distratti dai cellulari e quindi in un colloquio con i rappresentanti dei genitori ho chiesto loro un aiuto. Abbiamo pensato a un tipo di calendario dell'avvento dove i ragazzi ogni mattina quando entrano e iniziano le lezioni pongono il cellulare rispetto al numero che hanno sul registro. Come l'hanno preso i ragazzi? Non molto bene, infatti speravano in quest'anno di non trovarselo di nuovo in classe, invece purtroppo, visto che le cose che funzionano è meglio portarle avanti, abbiamo deciso di riproporle. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si celebra oggi la 29esima giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia di cui soffrono 20.000 anziani nella nostra regione. A Trieste il bus viola che dall'inizio del mese percorre le strade cittadine oggi alle 11:30 farà una corsa speciale per il centro città con partenza da Piazza Oberdan, accompagnati dalla guida turistica Francesca Pitacco e dalle voci registrate di Ariella Reggio e Marzia Postogna in un rapporto tra figlia e madre dominato dall'Alzheimer nella loro quotidianità. A Udine ci sarà un incontro pubblico alle 15:30 alla Loggia del Lionello con l'Associazione Alzheimer Udine e il neurologo Francesco Bax. A Staranzano l'Associazione Alzheimer Isontino propone una serata di racconti in dialetto alle 20:30 nella Sala del Bianco. E l'Associazione De Banfield suggerisce un modo concreto per aiutare i familiari di persone con demenza: l'acquisto del libro, i cui ricavati vanno in beneficenza, La nonna sul pianeta blu, ancore di salvezza. Ma la giornata è soprattutto l'occasione per lanciare l'allarme per la mancanza di servizi sufficienti a sgravare le famiglie, come denuncia la presidente dell'associazione De Banfield, Maria Teresa Squarcina. Sentiamo. le nostre richieste come portavoce di tutte queste migliaia di persone sono proprio in direzione sia di aiuti economici, riconoscendo questo ruolo fondamentale che a livello sociale complessivo, non solo per se stessi individualmente, e si portano, sia soprattutto anche di servizi. Ci sono abbastanza servizi a Trieste o in generale in Friuli Venezia Giulia? Ci sono pochissimi servizi rispetto alle esigenze. Sono aumentate, non sappiamo quanto di qualità, le strutture di ricovero, però per esempio un altro servizio come quello del centro diurno, che quindi per alcune ore aiuta, segue, assiste queste persone, a Trieste ce n'è uno solo che regge a fatica, il comune a suo tempo ha cercato di aprirne uno e non l'ha poi aperto, e in regione la situazione non è molto diversa. Ci sono rari casi di centri diurni, che sarebbe un servizio fondamentale di supporto. Noi cerchiamo di dare voce a queste persone che a volte neanche riescono a farsi sentire, ed è su questo, cioè riconoscerli come figure portanti di tutta l'area dell'assistenza ai malati di demenza, agli anziani fragili. Oggi è anche la giornata europea della cooperazione, occasione per presentare i risultati dei progetti Interreg Italia-Slovenia conclusi. In particolare la cooperativa sociale Itaca parlerà del modello Cross Care che ha coinvolto 350 anziani in vari centri a Sacile, all'ITIS di Trieste, a Portogruaro, a Capodistria, a Lubiana. Da quell'esperienza è nato un protocollo di cooperazione transfrontaliera per la presa in carico personalizzata dell'anziano fragile. Si parlerà anche del nuovo programma Interreg approvato poco più di un mese fa dalla Commissione europea. L'incontro è all'Hotel Savoia di Trieste dalle 9.30. E l'ONU promuove oggi la giornata internazionale della pace. Dopo 7 mesi di guerra in Ucraina, a Udine ci sarà questa sera una manifestazione in silenzio alle 18.30 in piazza Matteotti. Partecipano numerose associazioni della regione, fra cui citiamo l'ANPI, CGL, Donne in Nero, d'Asi, Stop TTIP e il Comitato della Marcia Perugia-Assisi. Oggi restano chiusi tutti gli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta per consentire la loro partecipazione ad un evento formativo. Chi ha bisogno di assistenza deve chiamare il numero verde per i servizi sanitari non urgenti 800 614 302. Enti di ricerca, università, ospedali, grandi, piccole e medie imprese a confronto per far nascere start-up innovative. All'Urban Center di Trieste è in corso la 7ª edizione del Euro Bio High Tech, una 2 giorni di tavole rotonde con più di 80 speaker dell'area Alpe Adria. Sfruttare le conoscenze per diventare innovativi. In 7 anni l'Euro Bio High Tech ha fatto partire oltre 200 start-up nate con il contributo del sistema Trieste, composto da 10.000 ricercatori, ai quali se ne aggiungono altri 2.000 in regione. Assumendo i laureati usciti dalle università o dagli enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia, le aziende diventano innovative, perciò competitive anche sul mercato internazionale. Fondamentale il dialogo con i mercati di prossimità dell'Alpe Adria e dunque il coinvolgimento di Confindustria Alto Adriatico e della Camera di Commercio Venezia Giulia, che ha invitato a Trieste il cluster delle tecnologie mediche della salute della Stiria e il Parco Tecnologico di Lubiana. Salute, energia informatica e settori delle start-up nate da Bio High Tech Net 4.0. Il direttore Diego Bravar. Start-up che creano microscopi molto avanzati, da altre imprese che creano automazione per il trattamento delle cure chemioterapiche e che fanno intelligenza artificiale. Tra le start-up c'è anche chi si occupa di energie alternative. Un'azienda aiuta sostanzialmente a fare energie alternative nel settore fotovoltaico. Ma non solo, adesso andiamo verso l'idrogeno e la prossima edizione parleremo di aziende che fanno questo. Servono nuovi spazi per le start-up. L'Urban Center di Trieste ne ospita 15 ed è già al completo. Intanto il 1 ottobre parte la gara per l'individuazione del partner privato di Triliton, Trieste Valley Innovation Hub, un progetto dell'OGS finanziato con 20 milioni dal PNRR. Franco Coren. L'obiettivo finale non è quello di avere i laboratori e basta come fosse una medaglia, ma di generare una ricaduta importante nell'ambito industriale e insomma produttivo in generale. Trieste, Vacciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Moltissime persone ieri pomeriggio nel Duomo di Udine hanno reso l'ultimo omaggio al giornalista, critico d'arte e intellettuale Licio Damiani. In Duomo a Udine il Friuli ha pianto uno dei suoi figli illustri, quel Licio Damiani che, anche se nato a Lussin Piccolo nel 1935, è arrivato in Friuli causa le vicissitudini della guerra, ha sempre considerato la piccola patria quale sua terra di adozione. Giornalista, critico d'arte, saggista, narratore, ha sempre utilizzato i registri della cultura per parlare del mondo che lo circondava. Ugualmente acuti ed eruditi i suoi corsivi per la trasmissione radiofonica della TGR del Friuli Venezia Giulia Vita nei Campi, dove ogni settimana ritagliava spaccati del mondo agrario, come per le fine analisi di critico d'arte, i saggi sui protagonisti della pittura friulana, le incursioni nel mondo della narrativa. Un intellettuale che, come ebbe a scrivere Carlo Sgorlon, non delegava mai al suo stile di scrittura, ricchissimo di metafore, cromatismi, immaginose invenzioni, verve linguistica. Durante l'omelia il celebrante ha voluto sottolineare le doti di sensibilità di Licio per tutte le cose della vita, l'entusiasmo con cui ritagliava le sue passioni e partecipazioni, l'impegno mai scontato nel suo lavoro di giornalista, critico, attivista nel sociale. A salutarlo tantissima gente che ha avuto modo di incontrarlo e apprezzare le sue doti di uomo intellettuale. Così lo ricorda Giuseppe Bergamini, storico dell'arte e già direttore dei Civici Musei di Udine. È stato senz'altro il maggior divulgatore di arte contemporanea, il maggior conoscitore di arte contemporanea. I suoi libri sulla storia dell'arte in Friuli nel Novecento resteranno pietre miliari per la conoscenza della nostra arte. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La storia della grafica italiana in 200 opere la propone la mostra aperta al Magazzino delle Idee di Trieste e visitabile fino al prossimo 6 gennaio. Le opere di 25 grafici del Novecento al Magazzino delle Idee di Trieste per la mostra L'Italia e l'Alliance Graphique Internationale. L'esposizione è organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale ed è curata da Carlo Vinti. Nasce per celebrare il 70° congresso dell'Alleanza Internazionale dei Grafici che quest'anno si tiene a Trieste ed è coordinata da Paolo Tassinari. I 25 autori in mostra sono tra i maggiori esponenti della grafica italiana e del design internazionale del Novecento. In mostra fino al 6 gennaio oltre 200 tra manifesti, annunci pubblicitari, prodotti editoriali e altri stampati. Il percorso espositivo va da autori come Bruno Munari, di cui vediamo una famosissima opera alle mie spalle, passando per Albert Steiner, per Emanuele Luzzati, Franco Grignani, fino ad arrivare ad alcuni dei maestri un po' più recenti come Pierluigi Cerri e Italo Lupi, e il percorso si chiude con Pierpaolo Vetta. Forse nel modo di fare comunicazione oggi si è rotto un po' il legame con questo passato importante, soprattutto diciamo le grandi aziende non sempre si rivolgono al meglio della cultura del design che ancora oggi esprime l'Italia. Un patrimonio che va valorizzato, conclude Vinti. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 7.46, il basket, quarto successo per l'APU Old Wild West nella Supercoppa. Il Carnera e i Bianconeri hanno battuto ieri sera la Stella Azzurra Roma per 80-65 e si sono qualificati per le Final Four di Forlì. Venerdì saranno impegnati nella semifinale. Solo nella prima frazione qualche titubanza per la squadra di Bonicioli che poi si scioglie e stacca progressivamente gli avversari. All'intervallo lungo il parziale dice 39-34. Alla fine del terzo quarto il vantaggio friulano è di 11 lunghezze. Finale in scioltezza con l'APU che domina a rimbalzo e chiude con 17 punti di Sherry, il miglior giocatore, 14 di Miane, 11 di Mussini e Antonutti. E torniamo alla cultura, opera lirica. In attesa dell'apertura di stagione il 4 novembre, il Teatro Verdi di Trieste offre il tradizionale concerto di presentazione del nuovo cartellone. Sipario alle 18 con il Don Pasquale di Donizetti, che è interminabile andirivieni, poi la Bohème di Puccini, valzer di Musetta, e l'Otello di Verdi, fuoco di gioia, con il soprano ucraino Olga Diadiv, l'orchestra e coro della Fondazione Lirica del Teatro Verdi e diretti da Paolo Longo. Un noir ambientato in una Trieste immaginaria di inizi del Novecento, con attori in carne ed ossa ma anche ologrammi. Va in scena da oggi a sabato al Teatro Rossetti alle 20:30. Psy, ombre abbaglianti di Gigi Funcis con Lorenzo Acquaviva, Veronica Darioli e Giovanni Boni, con la partecipazione olografica di Lino Guanciale, Angelica Leo, Roberta Bruzzone e Alejandro Bon. Una giostra mai vista, una grande bilancia con da una parte un pianista e il suo strumento e dall'altra un tappeto volante con a bordo quattro spettatori alla volta. È lo spettacolo che va in scena alle 16 e alle 20 a Pordenone in piazzetta Calderari per il Festival Arlecchino Errante. Alle 20:45 nell'ex convento di San Francesco la compagnia Mulino ad Arte con lo spettacolo Mi abbatto e son felice terrà un monologo autoironico a impatto ambientale zero. Con l'innalzamento dei mari scompare sempre più la sabbia. Alle 20:30 al Palazzo del Fumetto di Pordenone una performance vuol fare riflettere su questa conseguenza dei cambiamenti climatici. In scena l'attore Massimo Somaglino e gli artisti della sabbia Fabio Babic e Massimo Raccozzi, che creano opere fluttuanti accompagnati dal soprano Rachel Duckett e dal pianista Andrea Boscutti. La nave dei coreani se ne va vuota, anche il Piccolo di Trieste dedica la sua apertura alla mancata partenza dei motori Wärtsilä destinati alla sudcoreana Daewoo. Altro tema in primo piano, quello sollevato dal comitato Novo Via, che ieri ha reso pubblica una comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica, secondo cui tutte le tipologie di impianti a fune rientrano nel divieto di edificazione nelle aree Natura 2000 e ha annunciato un ricorso alla Corte dei Conti e alla magistratura ordinaria. La replica del Comune, ricordiamo che quello del Ministero è un parere, non una legge, ed è lo stesso Ministero ad aver voluto l'opera nel PNRR. La legge consente deroghe in casi di interesse speciale, la cabinovia vi rientra, dice Comune di Trieste, per l'importanza dell'opera per salute, ambiente e mobilità. L'edizione del Piccolo di Gorizia anticipa i temi del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva, con le varianti al piano regolatore necessarie alla realizzazione nell'area dell'ex mercato all'ingrosso di un parcheggio interrato e di uno spazio polifunzionale coperto, ma per eventi e manifestazioni culturali, ma sul parcheggio incombe la scure dei prezzi delle materie prime schizzati alle stelle. Rigenerazione dell'area ex COP, l'operazione approda in consiglio comunale, l'apertura della cronaca del Piccolo di Monfalcone. Il Messaggero Veneto del Friuli apre con il piano per contenere i costi dell'energia a scuola, riunioni online e aule meno riscaldate. A centropagina il pane è sempre più caro, oggi è peggio del Covid, dicono i panettieri, almeno durante la pandemia si poteva risparmiare. In taglio basso il calcio, è Deulofeo il faro del campionato, meglio di lui c'è soltanto Messi. Nei richiami di cronaca in prima pagina il CAFC dice la crisi idrica non è finita, lotta agli sprechi e alle perdite. La segnalazione, il pubblico registro automobilistico dell'ACI non accetta le carte di credito, la pubblica amministrazione così non dà il buon esempio ai negozianti. I prosciuttifici di San Daniele cercano 50 addetti e nasce una scuola per i giovani, c'è tempo fino al 13 ottobre per iscriversi e sono 12 posti a disposizione. Sul sito web della regione tutte le informazioni. Capocronaca di Udine del Messaggero per i conti del comune, 4 milioni in più per le bollette, tagli anche alle luminarie di Natale, salva la piscina di via Pradamano, resterà aperta. Nell'edizione pordenonese del Messaggero la notizia principale di cronaca è sui manifesti elettorali di Salvini e Meloni che sono stati strappati, la prefettura potenzia la vigilanza. La pagina di Pordenone e del Friuli del Gazzettino apre con le case di riposo, via libera ai rincari, la giunta regionale è pronta nei prossimi giorni a togliere il vincolo di 1,50 euro al giorno che era stato introdotto per ottenere gli aiuti Covid. Soddisfatti i direttori dell'RSA che altrimenti dicono dovranno chiudere. A centropagina il comune di Pordenone e quello di Udine hanno già deliberato di spegnere le luci di Natale. Festa solo in centro, i quartieri resteranno al buio. Carabinieri cambio al vertice, il nuovo comandante provinciale è il tenente colonnello Roberto Spinola, 45 anni, che prende il posto del colonnello Luciano Paganuzzi, che è stato trasferito a Genova. Porte aperte al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine dalle 9.30 a Palazzo di Topo Wasserman con la presentazione dei corsi di studio e visite guidate alla biblioteca e ai palazzi. Dalle 12 i neo immatricolati ai corsi in beni culturali, lettere, scienze e tecniche del turismo culturale faranno il test per misurare il proprio livello di preparazione iniziale. Fino al 23 settembre si può inoltre visitare con una guida la biblioteca umanistica. Prosegue a Udine il ciclo di incontri sulla giustizia penale, cominciato lunedì e organizzato dall'associazione di volontariato Sisifo, nata l'anno scorso dalla passione di 7 ragazzi per la giustizia. Questa sera alle 17.15 nella sede di economia dell'Università in via Tomadini intervengono il garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Udine, Franco Corleone, Roberta Casco e Marina Zucco dell'associazione Icaro, che si occupa di volontariato all'interno del carcere, e la professoressa Rombi, docente di diritto processuale penale all'Ateneo Friulano. Un libro per approfondire la figura di Manlio Cecovini, sindaco di Trieste dal 1978 all'83, parlamentare europeo, reduce di guerra, rotariano. Da Trieste all'Europa, Cecovini politico, scrittore, massone. Questo il titolo, a cura di Luca Manenti, edito da Rubettino. Sarà presentato alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11. Alle 11.10 quotidiano appuntamento con Vueo Fevelindi, che parlerà del progetto Terre Alte tra confini e frontiere. Alle 11.20 andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore. I programmi regionali tornano poi alle 14. È tutto da Francesca Terranova e Francesca Vigori, che hanno redatto e condotto questo notiziario, Bruno Montevecchi, che ha curato la parte tecnica, e Daniela Sossi in redazione. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata ancora. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.